9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo 27 dicembre ci è sembrato giusto dedicare un po' del nostro tempo a i nostri pensieri, scusate, un po' di sentimenti, se anche empatia, passione, cuore, insomma, alle migliaia di italiani che in divisa sono impegnati non solo nel nostro paese, in tutta la difficile attività dell'ordine pubblico, all'ennesimo caso di rimozione dell'immondizia a Napoli, dai vigili del fuoco, no, ma soprattutto anche a coloro ai quali affidiamo missioni ancora più difficili, cioè le missioni internazionali militari, nelle quali il nostro dispositivo della difesa è impegnato. Sono uomini di cui ci ricordiamo spesso, al di fuori di chi segue l'informazione specializzata sulle questioni internazionali, militari e strategiche, di cui ci ricordiamo spesso solo quando sono poi al centro di attacchi, quando c'è qualche incidente, quando qualcuno di loro, parecchi in questi anni, ci rimettono la vita. Solo allora ci interroghiamo sulla durezza, l'asprezza del sacrificio la vita per una divisa che si indossa e per servire la propria comunità fino allo sacrificio della vita. E allora siamo in giorno di festa e abbiamo deciso di fare una trasmissione in cui non solo facciamo qualche collegamento tanto per rivolgere loro l'affetto della comunità italiana, ma insieme a loro per riflettere anche su il quadro complessivo degli impegni che il nostro paese continua ad assumere. Noi continuiamo a mandare a mantenere quasi 8.000 uomini delle diverse forze armate in diversi contesti operativi, sono oltre quasi 30 le missioni internazionali in cui siamo impegnati in oltre 20 paesi e anche internazionali. Naturalmente le più importanti restano l'Afghanistan, che ha autorizzato l'impiego fino a 3.790 uomini delle diverse forze armate, la missione Leonte in Libano, che anche in quel caso vede impegnato migliaia di militari italiani, fino a 1780 unità. Nei Balcani, a diverso titolo, manteniamo più di 1100 uomini. E in Iraq, dopo anni e anni di impegno nel contesto internazionale successivo all'intervento nel 2003, oggi la nostra presenza si è molto abbassata. Siamo impegnati con alcune decine, 73-75 unità, nell'ambito del programma di sostegno e addestramento delle forze di sicurezza irachene. È un dispositivo molto impegnativo, che intorno al quale in questi anni ha finito per modellarsi la parte migliore, più avanzata, dotata dei migliori mezzi, come giusto, delle migliori infrastrutture e delle migliori forze di cooperazione delle nostre forze armate. Ricordo a tutti che è il comando operativo di vertice interforze, il COI, che nel dispositivo della difesa italiana è responsabile della pianificazione della realizzazione delle missioni interforze, comandato dal generale Cornacchione. E tuttavia il fatto che in questi anni il bilancio della difesa ha subito, nel quadro generale della spesa pubblica italiana, un ridimensionamento a propria volta inevitabile, e malgrado che noi continuiamo a spendere sempre meno di tutti i nostri partner della NATO, noi non abbiamo lesinato richieste a questi uomini. E ci sarà anche una riflessione oggi su questo. Non è giusto chiedere, naturalmente, a chi è impegnato sui teatri operativi, non spetta a loro dare giudizi sulla politica della difesa, però faremo anche qualche riflessione su questo argomento. Perché? Perché spesso si sente dire in questo paese, ogni qualvolta vi è una polemica intorno a poste di spesa pubblica, dalla scuola all'università, dai cinema ai teatri, ai musei. Sto pensando a Bondi, che dice che Tremonti gli ha fatto lo scherzetto, e così via. Chiunque dice spesa pubblica, più spesa pubblica, più spesa pubblica. E molti dicono: perché in definitiva continuare a spendere quel che si spende? Molto poco, devo dirvi la verità, molto poco, perché se noi ci fermiamo alla mera funzione difesa, cioè depuriamo il bilancio della difesa da tutto ciò che è estraneo alla funzione difesa, noi siamo al 0,8 del PIL, una cosa così, mentre i nostri alleati hanno 2, 3, 4 volte tanto. Eppure noi continuiamo a chiedere a questi uomini di impegnare al meglio i loro pochi mezzi, e questo è un problema, perché alla lunga l'intero dispositivo con presenze così impegnativo e con mezzi che noi continuiamo a lesinare va di fronte a problemi che sono inevitabili, e questo poi significa non solo mezzi che non sono al meglio e sono di numero non adeguato rispetto a quello che si deve, ma significa anche poi una crescita inevitabile del coefficiente di rischio a cui esponiamo i nostri uomini. E allora bisogna sapere che se continuiamo a chiedere ai nostri uomini di fare queste cose, bisogna loro non lesinare ciò che è giusto, altrimenti bisogna adottare una politica di difesa e di sicurezza che sia di un livello più basso. Questa è la scelta che una classe dirigente seria dovrebbe dire seriamente, non solo ai nostri alleati ma soprattutto ai nostri elettori, senza che di volta in volta scoprano o credano di scoprire, senza saperne nulla di difesa e sicurezza, che questo o quel programma militare pesa molto meno che realizzare spettacoli gratis per gli italiani nei teatri dove vogliono andare senza pagare, perché poi questo è il punto serio, oppure dove vogliono che i bilanci dei teatri continuino a essere largamente in eccedenza rispetto a ciò che si ottiene indietro con gli spettacoli. Uso apposta questi esempi taglienti, ma più volte ho sperimentato che è meglio far così perché la gente si arrabbi e reagisca e dica chiaramente: no, noi vogliamo che le forze armate vengano tagliate, nel qual caso allora noi usciamo dall'alleanza in cui siamo e la piantiamo di lire, però che viviamo in un mondo nuovo, un mondo in cui c'è una governance condivisa, in cui siamo passati dagli schemi più ristretti al G20 eccetera eccetera, un mondo in cui si chiede ai dispositivi internazionali di intervenire laddove la pace, la sicurezza, le popolazioni civili vengono messe in dubbio, perché non si può chiedere insieme l'una e l'altra cosa, perché per fare questa seconda cosa servono dispositivi militari, tecnologie, piattaforme, sistemi d'arma, gente molto ben attrezzata e molto ben istruita ed educata, e quindi sono tutte cose molto costose che allora però bisogna piantare di considerare come delle specie di lussi di Creso. Bisogna invece considerare che loro sono uno dei cementi più forti che ha il nostro paese. Discuteremo questa mattina di questi argomenti insieme ad Andrea Nativi, il direttore della rivista Terminale di Difesa, che saluto. Buongiorno Andrea Nativi. Buongiorno a voi. Abbiamo poi collegato in questa prima parte della trasmissione Claudio Angelelli, generale di divisione, che è il vice comandante della missione addestrativa della NATO in Iraq. Buongiorno generale. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora generale, abbiamo detto siamo in un contesto iracheno che naturalmente ha visto la nostra presenza molto restringersi rispetto a quella degli anni successivi al 2003, e oggi siamo impegnati con lei, che ha una responsabilità molto elevata, il vice comandante di questa missione addestrativa NATO in Iraq, nel sostegno alla strategie di miglioramento delle capacità tecniche operative delle forze di sicurezza irachene. A che punto siamo? Che soddisfazione si può esprimere di questo programma e quanto ancora si è coinvolti nella, insomma, instabilità che resta forte, anche se non è paragonabile rispetto a quella degli anni 2004, 2005, 2006. Dal punto di vista suo, come stiamo messi? Beh, lei sa che la NATO ha incominciato ad operare qui in Iraq fino dal 2004 in relazione alla richiesta del governo iracheno di partecipare appunto a un programma di sostegno delle proprie forze armate e delle forze di sicurezza, e anche in relazione a una risoluzione del Consiglio di sicurezza della NATO, che è la 1546 del 2004. Quindi noi siamo qui e rappresentiamo 14 nazioni della NATO, ma siamo supportati da tutte e 28 le nazioni. In quale maniera? In pratica ci sono rappresentanze di 14 nazioni, tra cui l'Italia, però ci sono, diciamo, flussi di finanziamenti o supporto con materiali di equipaggiamento che arrivano da tutte le nazioni della NATO. Il paragone con il passato, posso dire che in questi anni l'attività della NATO è stata molto efficace, perché ha consentito a delle forze armate che erano praticamente allo sbando di ricostituirsi, riorganizzarsi. Naturalmente noi lavoriamo in fase complementare con gli sforzi degli americani, che svolgono anche loro un'attività molto simile alla nostra, però noi abbiamo focalizzato, noi come NATO intendo dire, abbiamo focalizzato l'attenzione più sui quadri dirigenti che non sulla truppa, sulla massa, quindi abbiamo focalizzato l'attenzione sulla qualità anziché la quantità. Generale, lei ha avuto già incarichi lì anche anni fa, stava lì già nel 2006, in questi sì, 4-5 anni come ha visto cambiare la situazione? Beh, c'è stata un'evoluzione netta, c'è una percezione di efficienza ormai in ambito forze armate e forze di polizia. E il riscontro più evidente c'è stato durante le elezioni del marzo scorso, durante le quali diciamo tutte le attività di voto si sono svolte in maniera pacifica e in maniera diciamo regolare, per cui c'è stato un risultato positivo che ha portato oggi o comunque pochi giorni fa alla formazione del nuovo governo. Quindi vediamo delle forze armate e forze di sicurezza in genere che hanno il controllo del territorio e riescono a svolgere un'attività simile a quella che viene svolta diciamo nei paesi occidentali, nei paesi evoluti, ancorché esista sempre qui il timore, il rischio di attentati, e chiaramente questo aspetto richiederà tempi un pochino più lunghi per essere completamente dissolto. Nella sua valutazione, voi siete a più o meno alla terza fase di questa missione che è scandita a tappe, la quarta fase è naturalmente quella in cui si ultima la transizione vera e propria della responsabilità anche addestrativa e formativa al dispositivo della sicurezza delle forze irachene. Secondo voi quanto ci vorrà ancora per passare dalla terza fase in cui siete oggi alla quarta, cioè quella in cui si consegna anche la capacità integrale agli iracheni di addestrarsi e formare al meglio il proprio dispositivo di sicurezza? Beh, noi possiamo dire che siamo in una fase molto avanzata, tant'è che diciamo alcune componenti dell'organizzazione militare di controllo, anche civile, di controllo diciamo della situazione nel territorio iracheno è già passata completamente nelle mani del governo iracheno. Mi riferisco per esempio ai comandi operativi che svolgono un'attività di controllo e di collegamento fra di loro in ambito di tutto il territorio nazionale iracheno, comandi sale operative, centri di controllo che fanno capo sia alla presidenza del Consiglio, quindi al primo ministro, sia al Ministero della Difesa che al Ministero dell'Interno, hanno assunto la capacità di sostegno autonoma e di gestione autonoma proprio alla fine del mese di novembre, con una cerimonia ufficiale alla cui presenza ha partecipato anche il comandante della NATO, che è un generale americano a 3 stelle, e durante la quale è stata sancita diciamo, l'autosufficienza nella gestione diciamo, di queste situazioni di sicurezza e di controllo del territorio iracheno. Ci sono poi altre componenti che necessitano di supporto, c'è un piano che stiamo attuando nel dettaglio e che prevede appunto il passaggio di responsabilità graduale nel corso del 2011, ma si ha la percezione, diciamo quasi la sicurezza, la certezza che questo programma continui anche oltre il 2011, in quanto c'è stata una richiesta da parte del primo ministro iracheno di mantenere la presenza della NATO sul territorio iracheno anche al di là del 2011, e c'è una forte volontà dei paesi della NATO di continuare questa relazione e questo supporto anche al di là del 2011, data 31 dicembre 2011, nella quale c'è la scadenza del Long Term Agreement, cioè un accordo fra il governo iracheno e la NATO di presenza sul territorio. Quindi c'è questa scadenza, ma c'è anche la volontà da entrambe le parti di continuare in questa relazione anche nel futuro. Generale, dal punto di vista della le chiedo un giudizio senza entrare naturalmente in particolari che le possano mettere in imbarazzo rispetto alla relazione che svolge, ma dal punto di vista della stabilità politica attuale, ci sono stati mesi e mesi dalle ultime elezioni, le abbiamo seguiti per la formazione del governo, è un contesto nel quale ovviamente le influenze internazionali delle grandi paesi dell'area, l'Iran tanto per intenderci, ha la sua importanza. Ma in questo il dispositivo della sicurezza irachena ha sufficienti autonomie nella propria vita operativa dalle instabilità della politica, di una politica che deve abituarsi, e ci vorrà il tempo necessario a rappresentare le diverse aree del paese, le diverse etnie, le diverse sensibilità religiose, le diverse vicinanze, diciamo così, alle politiche delle potenze regionali. Il dispositivo militare di sicurezza irachena, dal punto di vista di voi che lo formate e di chi nel tempo rappresenta gli occhi e le orecchie della missione NATO, ha delle sufficienti caratteristiche di indipendenza, di autorevolezza rispetto a una politica che per anni rimarrà alla faticosa ricerca di una propria autonomia, indipendenza e autorevolezza? Che ne dice da questo punto di vista? Perché molti temevano che un paese senza tradizioni alle spalle, se non quelle autocratiche, autoritarie, e diviso da fortissimi scontri etnici, religiosi, eccetera, eccetera, nel dispositivo di sicurezza delle forze armate non potesse che eternarli, rappresentarli al peggio, per così dire, visto che ci sono le armi in mano. Da questo punto di vista, quali sono secondo lei i risultati, le garanzie per il futuro di un Iraq le cui forze armate, cioè, siano un presidio di sicurezza, di democrazia e pluralismo e non uno strumento nelle mani delle diverse fazioni? Noi abbiamo forti evidenze che le forze armate, le forze di sicurezza in genere irachene, abbiano una loro, diciamo, indipendenza da quella che può essere l'influenza politica. Lo hanno dimostrato in questo periodo in cui hanno gestito il controllo del territorio in maniera molto equilibrata, e lo dimostra anche il fatto che all'interno delle forze di sicurezza esistono tutte le componenti etniche presenti in Iraq, e no, almeno per quanto ci risulta non ci sono, diciamo, discriminazioni di nessun genere, anzi diciamo una delle nostre attività principali è quella proprio anche di consentire la fusione fra tutte le etnie, di consentire il contatto e lo scambio di informazioni fra di loro, quindi noi facciamo in modo tale che presso le nostre istituzioni vengano frequentati i corsi che gestiamo noi da tutte le componenti, e cerchiamo di, diciamo, incentivare anche la presenza curda con gli zerevani, in particolare nelle attività che svolgono i carabinieri, in modo tale che ci possa essere, diciamo, una ripartizione equilibrata dell'informazione e, diciamo, della capacità operativa sul territorio. Un altro aspetto importante da non sottovalutare è che da parte del governo iracheno, quindi del Ministero della Difesa in particolare e dell'Interno anche, si cerca sempre di consentire un equilibrio fra le componenti etniche, per esempio nella frequenza dei corsi che vengono effettuati al di fuori del territorio iracheno, per esempio in Europa, nei centri di eccellenza europei o americani, diciamo la frequenza di questi ufficiali o sottufficiali viene consentita in maniera molto equilibrata fra tutte le componenti etniche. Questa è una dimostrazione, a mio avviso, di equilibrio, una dimostrazione di indipendenza e anche di volontà di voler superare quegli attriti e quelle tensioni che, diciamo, hanno caratterizzato il passato. Ho nella missione in Iraq un ruolo importante, naturalmente è svolto anche da ufficiale dell'arma dei carabinieri, e a fianco al generale Angelelli, io le prego di passare il microfono, c'è il colonnello dei carabinieri Fausto Vignola, che è il comandante della Gendarmerie Training Division della NATO Training Mission in Iraq. E al colonnello Vignola chiedo apertamente, da ufficiale dei carabinieri italiani, quando si è trovato lì per la prima volta. Mi sente, colonnello? Sì, la sento, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di stare con noi. Una domanda così, nell'ambito di questo compito che lei svolge lì, abbiamo illustrato ai nostri ascoltatori in che cosa consiste. Quando si è trovato per la prima volta, per quanto uno possa avere le istruzioni tecniche operative, avere naturalmente la conoscenza dell'Iraq che tutti quanti, e voi specificamente, vi siete dovuti fare in questi difficili anni che abbiamo alle spalle, ma quando si trova per la prima volta poi di fronte a dover organizzare insieme ad altre, di altre nazioni, della nostra alleanza. Il compito che resta complicato di mettere insieme programmi di istruzione su un campo così delicato come le forze di sicurezza, tra etnie così storicamente diffidenti le une delle altre e con recenti anni alle nostre spalle in cui hanno preso le armi con le loro milizie armate. Da questo punto di vista, l'esperienza sua come ufficiale dei Carabinieri, come ha superato la difficoltà? Oppure aveva, per così dire, una cognizione precedente a quella della missione di questi anni per dover affrontare un compito così complicato? Di base, personalmente, io faccio servizio al centro di eccellenza per le polizie di stabilità, che è un centro di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri in cui provvediamo a fornire addestramento a personale di forze di polizia di tutto il mondo. Quindi, diciamo, il mio background professionale in questo senso mi ha aiutato. Resta comunque il fatto che ovviamente nel momento in cui ci si trova ad organizzare programmi di questo genere bisogna affrontare la situazione ad ampio spettro, cercando di accomunare anche gli aspetti professionali di tutte le parti. Diciamo che il punto più importante al quale io faccio sempre riferimento è il fatto che, pur appartenendo, diciamo, a culture o servendo stati diversi, noi siamo accomunati dalla cultura della sicurezza, che deve andare a favore dei cittadini ed ovviamente dello Stato che serviamo. E in questo caso noi interpretiamo tutto questo, secondo l'impostazione della nostra missione, a favore dell'Iraq, dell'Iraq che in questo momento sta crescendo. Grazie Colonnello Vignola, grazie al generale di divisione Angelelli. E ora abbiamo la pubblicità, poi Libano e una riflessione insieme a Nativi sul nostro dispositivo all'estero in Italia militare. Eccoci tornati in studio, consentitemi di anche mandare un pensiero, oltre naturalmente a tutti coloro delle diverse armi che sono impegnati a migliaia all'estero, a una parte delle forze militari italiane che sono impegnati in missioni tra le più delicate, soprattutto di questi tempi in Afghanistan. L'Afghanistan resta il contesto operativo più complicato nel quale siamo impegnati, è un contesto nel quale, come l'Iraq negli anni precedenti, la strategia che è stata seguita, e stiamo parlando in questo caso soprattutto della parte più rilevante, quella americana, nella missione, è stata una strategia come sempre discutibile con il senno del poi, ma insomma molti sono convinti che quello che fu il primo intervento internazionale dopo l'11 settembre del 2001 abbia in realtà a questo punto pressoché fallito i suoi risultati. Tutti sono convinti che andrà a finire esattamente come dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan, cioè con i signori della guerra e i Taliban che riprenderanno il controllo della situazione. Io non la penso così, ma una cosa è sicura: in quel contesto operativo in cui con Petraeus si è cambiato strategia, come gli americani cambiarono strategia dopo il 2004-2005 terribili in Iraq, e con Petraeus misero in atto quello che si chiamò la Surge, quindi una strategia nella quale si accetta di doversi misurarsi sul campo, si estende l'area operativa di sicurezza coinvolgendo le popolazioni. Certo, ci si espone a più perdite, ma si tenta palmo a palmo di costituire il presupposto del controllo territoriale, che è la base di qualunque ripresa di controllo politico poi e di esperimento di stabilizzazione successiva. Ecco, in quel contesto consentitemi di mandare un pensiero poi agli italiani, che sono quelli dei reparti a cui vengono affidate le missioni più delicate. Noi in questi anni ci siamo dati alcune restrizioni come comunità dell'informazione per raccontare la presenza militare impegnata sui teatri operativi, quelli più difficili, quelli in cui si spara, cioè si interviene per eliminare forze nemiche quando si viene attaccate. Lo abbiamo fatto con una convenzione a quale io sono un po' critico, a dire la verità, perché penso che sarebbe opportuno che l'opinione pubblica italiana sapesse quello che poi noi chiediamo di fare ai nostri militari. Vi sono aspetti delicati, perché molti sono convinti che gli italiani non abbiano la maturità e la consapevolezza necessaria per affrontare poi le ondate emotive che tutte le volte abbiamo visto scatenarsi nel nostro paese quando avvengono perdite dolorose di vite umane. Ma in questo quadro e con tutti i miei dubbi sul fatto che si parla troppo poco di queste missioni particolari che ogni giorno avvengono nel contesto dell'Afghanistan, consentitemi di mandare un pensiero agli amici che ho nelle diverse unità delle forze speciali delle nostre forze armate. Ormai sono ufficiali di una certa età, ho poca gente che conosca oramai di quelli più giovani che sono impegnati in attività operative, però insomma la mia opinione è che forse gli italiani dovrebbero sapere che quello che noi chiediamo alle unità del corpo del comando interforza per l'operazione delle forze speciali, cioè a unità come il 9° reggimento d'assalto dei paracadutisti, il Colmo Skin, il gruppo operativo incursore della Marina, gli incursori del 17° stormo dell'aeronautica militare, al gruppo intervento speciale dei carabinieri, sono operazioni tra le più terribili, complicate, impegnative che si possano chiedere all'essere umano, in dispositivi che vengono messi in atto insieme a colleghi delle altre nazioni di cui nessuno sa e saprà nulla. C'è poco di cinematografico in quello che sto dicendo, c'è molto di consapevolezza di fior di uomini in cui in quei contesti così lontani dal nostro paese gli chiediamo di fare cose nella convinzione che poi è molto complicato anche solo darne qualche cenno all'opinione pubblica italiana. Ecco, di questo io sono, credo che non si possa che esprimere a loro sostegno, comprensione, a loro e alle loro famiglie che fanno una vita d'inferno. Perché magari quando avviene l'incidente c'è qualcuno poi in patria che racconta che sono mercenari, perché è capitato puntualmente, lo sapete meglio di me. E allora, con tutta questa amarezza, io a nome di tutti, spero della maggioranza quantomeno di chi ci ascolta, a loro un pensiero e ai loro familiari un pensiero moltiplicato per 10. Ora sentiamo invece come vanno le cose in un altro dei contesti in cui sono impegnati un bel po' di nostri uomini. Stiamo parlando della missione che ci vede impegnati in Libano sulla Blue Line, la linea divisoria, diciamo così, dopo la missione che le forze di difesa israeliane, la missione, l'invasione, diciamo così, posero in atto nel 2006. Sapete che lì c'è un contesto di Nazioni Unite, di risoluzione delle Nazioni Unite che va avanti da decenni, e in questo contesto nell'operazione Leonte, quella della separazione, per così dire, delle forze di difesa israeliane e delle forze di Hezbollah, è impegnato un importante dispositivo italiano. Noi abbiamo il compito non solo di separare le parti, per così dire, ma anche di dare sostegno alle forze militari e di difesa libanesi, che hanno a propria volta una situazione politica di una certa instabilità, e di aiutarli nel pieno controllo della situazione. E abbiamo collegato con noi il generale di brigata Guglielmo Luigi Miglietta, che è comandante del settore ovest di Unifil. Buongiorno generale Miglietta, grazie. Buongiorno dottor Giannino, gentili ospiti, ma soprattutto gentili radioascoltatori. Il contingente multinazionale attualmente è affidato alla brigata di cavalleria italiana, comprende, oltre ai circa 1600 italiani, i 2.300 soldati di Francia, Corea del Sud, Malesia, Ghana, Tanzania, Slovenia e Brunei, e da questi a tutti quanti voi il loro saluto. Allora generale, naturalmente la prima cosa è, lì nella vostra zona ci sono stati segnali che le cose evolvono verso il meglio, verso il peggio, sono stabili in attesa che ci siano nuove fiammate politiche di stabilità tra le due parti che voi separate, oppure nella vostra sensazione le autorità, le forze armate libanesi hanno un controllo via via col tempo un pochino maggiore? Le chiediamo un esame insomma spassionato e razionale, al di là della giusta istanza di rassicurazione che lei deve svolgere nel contesto, però le cose come stanno? Perché c'è anche chi talvolta ha detto beh, la presenza italiana è un velo diplomatico, ma in realtà gli Hezbollah continuano a fare un po' quello che vogliono con i loro dispositivi sotterranei pronti a ritirare tutto fuori contro Israele. Le cose come stanno in realtà? Ma guardi dottore, io posso dirle questo: le risoluzioni delle Nazioni Unite, in virtù delle quali ci troviamo oggi ad operare nel sud del Libano, si pongono tutte l'obiettivo di consolidare la sovranità dello Stato libanese in quest'area, affinché possa esercitare il pieno controllo sul proprio territorio. Ecco, possiamo affermare che quello che nel 2006 sembrava essere un obiettivo ambizioso sta diventando giorno dopo giorno una realtà sempre più consolidata. Infatti, se dal 1978 il presidio del confine sud era prerogativa di fazioni armate, oggi l'esercito libanese dispiega un certo numero di brigate tra il fiume Litani e la Blue Line, cioè la linea di ritiro delle truppe israeliane. Ecco, il capillare controllo del territorio operato dai caschi blu e dalle forze armate libanesi ha fatto sì inoltre che si ottemperasse al mandato della risoluzione 1701 di creare un'area libera dalle armi e dalle munizioni. Nell'ultimo anno infatti non si sono verificati episodi di lanci di razzi verso Israele, mentre gli incidenti sulla Blue Line sono riconducibili ad incomprensioni tra le parti o ad azioni sconsiderate di singoli più che dalla volontà di riaccendere il conflitto. Il rapporto con la popolazione locale, i locali vi vedono come un dispositivo a tempo con cui non avere relazioni di una certa profondità, o invece c'è anche un piano di sostegno alla popolazione civile che vi vede impegnati e che poi probabilmente sarà il segno, il seme di una presenza successiva, anche quanto si spera che i dispositivi militari saranno poi superati nel tempo? Ma guardi, il successo della missione di UNIFIL è basato proprio sul successo dei rapporti che ci legano ai cittadini locali. Proprio per questo il nostro centro di gravità è il consenso della popolazione civile. Solo per farle un esempio, grazie ai 465 progetti di cooperazione effettuati dal novembre del 2006 ad oggi nei settori di competenza delle task force italiane, per rimanere solo in ambito italiano, per un importo pari a circa 6 milioni di euro di investimento, abbiamo saputo conquistare credibilità, ammirazione e rispetto, prima di tutto grazie alla nostra equidistanza, me lo lasci dire. Per merito del lavoro dei nostri esperti in uniforme stiamo per consegnare alla cittadina di Zikfin i lavori di rifacimento ad esempio della strada principale, stiamo lavorando su due nuovi edifici comunali e ci piace anche ricordare come si stia intervenendo in due settori particolari, la salvaguardia del patrimonio culturale con la sistemazione delle opere di recinzione dell'imponente ippodromo di Tiro e la sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente mediante l'installazione di impianti di illuminazione stradale dotati di pannelli solari. Quindi ritengo che il rapporto con la popolazione locale permarrà negli anni. Va bene, io ringrazio anche il generale Miglietta, augurando a lui e a tutti i suoi uomini di passare dei giorni sufficientemente sereni. Sono convinto che anche loro volgano un pensiero particolarmente intenso ai colleghi delle altre unità che sono dispiegate nel contesto afghano, dove le situazioni è decisamente più calda rispetto a quanto abbiamo visto nella missione ridimensionata al sostegno del training delle forze armate di sicurezza in Iraq. E un compito sia pur molto delicato come quello in Libano, ma insomma un compito rispetto al quale le minacce dell'ambiente circostante provenienti dall'esterno sono, grazie al cielo, di un livello decisamente più basso rispetto a quelle del contesto operativo afghano. E allora sull'Afghanistan invece Andrea Nativi gli chiedo una riflessione: come stiamo messi nel tempo rispetto ai nostri obiettivi? I nostri obiettivi, gli americani hanno chiesto nell'ambito del fortissimo potenziamento dispiegato da questo presidente che aveva vinto l'elezione dicendo che bisognava andarsene dall'Iraq e facendo capire che bisogna fare lo stesso nell'Afghanistan, poi di fronte ai militari che ha delegittimato nel tempo, è stato costretto in realtà ad intensificare l'impegno militare in Afghanistan per non perdere rovinosamente la guerra. In questo contesto ci è stato chiesto di fare anche a noi di più. Il giudizio spassionato da dare, come capiranno i nostri ascoltatori stamattina, lo Stato Maggiore ci ha detto: vabbè, non possiamo prestarvi ufficiali dall'Afghanistan per un'ora di tempo o per mezz'ora di tempo, e questo la dice lunga anche sulla delicatezza operativa. Ma insomma, dovessimo dare un giudizio spassionato di quello che non diamo spesso sui media generalisti, Andrea, come stiamo messi secondo te in Afghanistan? Allora, diciamo, non così male come viene percepito dall'opinione pubblica in genere, non così bene come vorrebbero nei circoli politici. Credo che si vada avanti ancora con una maratona che richiede anche soluzioni politiche difficili, compreso quello di negoziare con una parte dei talebani, ci si sta provando con risultati misti, diciamo così, una continuazione della surge militare ben al di là di quello che il presidente Obama ha detto, ovvero sia l'estate prossima. Uno sforzo quindi continuato da parte di tutti i paesi NATO, compresi l'Italia, se non vogliamo trovarci nei guai, perché i progressi nella ricostituzione delle forze locali, l'ANA, l'esercito va discretamente bene, la polizia ancora proprio siamo in alto mare, l'avversario è comunque serio, c'è il problema della frontiera col Pakistan che è permeabile, anche se ultimamente gli americani ammazzate lì ne stanno dando pesanti, al punto che alcuni talebani pensano bene di spostarsi, perché l'area del Waziristan e della zona della Fatah non è più così tranquilla come era un tempo. Comunque direi che si va avanti in una maratona. Il passaggio di consegna 2014, vedete, è stato definito e ribadito ancora al vertice NATO di Lisbona, perché è una data talmente lontana che consente poi di rigiocare, di riarticolarla nel tempo, per così dire. Abbiamo il minuto sulla circolazione stradale e poi torniamo con nativi, i mezzi a disposizione e un po' di riflessioni sui soldi alla difesa e su questa un po' ipocrisia che abbiamo noi dei media italiani su questi temi. Eccoci tornati con il direttore della rivista Italiana Difesa, Andrea Nativi. Nel tempo, noi ricorda che abbiamo già fatto diverse trasmissioni in cui chiedevamo che ai nostri impegnati in Afghanistan si dessero più mezzi, si uscisse da alcune ipocrisie del tipo, all'epoca c'erano i Tornado, però i Tornado che non potevano avere dispositivi di lancio di un certo tipo, ma solo i cannoncini, insomma, siamo usciti dal pieno sostegno di ciò che abbiamo come giusto ai nostri lì, oppure siamo ancora, secondo lei, in una fase di ipocrisia? Io temo che l'ipocrisia rimanga e non sia stata superata. Infatti abbiamo deciso di non armare i velivoli con armamento di caduta, intendesi bombe di precisione, abbiamo deciso di non armare i velivoli senza pilota con missili piccoli aria superficie. Tra l'altro la cosa diventerà ancora più clamorosa quando l'anno prossimo cominceremo a schierare i nuovi Reaper, che sono degli UAV ancora più grossi, che arrivano già con i travetti pronti per montarci i missili. Noi i missili non li compriamo, non mandiamo mezzi più pesanti come potrebbe essere un po' d'artiglieria o le blindo Centauro. Insomma, noi abbiamo una missione di combattimento, di guerra, non è inutile nascondersi, non gli diamo proprio tutto quello che potremmo dargli, e la cosa è che se non c'è mai il limite al meglio, però se uno queste cose le ha e le ha in casa, o gli servirebbero 6 mesi per dotarsi di questi mezzi e di una cifra relativamente modesta, beh, allora la cosa non è politica, non è tecnico-militare, quindi io gli darei tutto quello che potrebbe essere utile e poi lasciare al comandante in teatro decidere se e quando è necessario utilizzarli. Questo per quanto riguarda i mezzi, posto che comunque le dotazioni sono sempre state migliorate costantemente, ma con una troppa attenzione al politicamente corretto e a quello che succede a Roma invece che a quello che succede a Kabul e dintorni. Questa è proprio la mia opinione spassionata. Quanto ai costi, voi sapete che per quest'anno, i primi 6 mesi, sono stati stanziati 750 milioni di euro per le missioni all'estero. L'intenzione è di ridurli anche in maniera significativa, e questo inizialmente avverrà diminuendo sostanzialmente l'impegno nei Balcani, dove siamo già fuori dalla Bosnia, e con il piano NATO in atto ridurremo, speriamo di poter ridurre molto la presenza in Kosovo. Poi c'è un'idea di ridurre tutta una serie di altre missioni minori, compresa e anche la missione in Libano, dalla quale per esempio abbiamo eliminato la nostra presenza navale. L'Afghanistan rimarrà al fulcro, e rimarrà un fulcro parecchio costoso. Lo shift che ci sarà, diciamo a metà anno, se ci riusciamo, con il primo trasferimento di responsabilità a Herat, alle forze dell'ANA rispetto alle nostre che hanno un battle group lì, dovrebbe anche portare a una rimodulazione, perché l'intenzione è quella di sostituire le truppe combattenti con truppe da addestramento e da supporto. Vedremo se ci riusciamo, però questa è la situazione per quanto riguarda le missioni. Se dovessimo dare un giudizio politico invece del trend degli stanziamenti alla difesa complessivamente in questi anni, io noto, questo è il mio giudizio, le chiedo la sua opinione, che da una parte c'è un'ipocrisia condivisa sull'utilizzo davvero di ciò che c'è a disposizione delle nostre forze armate, dai tempi del centrosinistra quando i nostri bombardavano, i nostri aerei bombardavano in Serbia, ma non bisognava dirlo, a un centrodestra che continua sulle operazioni militari più delicate ad avere un atteggiamento più o meno analogo. C'è un'ipocrisia da questo punto di vista, che condivide però la stessa scelta di tagliare tutto il tagliabile anno per anno. E com'è possibile continuare a tagliare così tanto con l'idea che la gente invece poi si fa che continuiamo a spendere troppo, quando poi continuiamo a chiedere contemporaneamente così tanto e così in più rispetto a quello che diamo davvero loro nei bilanci? Qual è la sua opinione di tecnico del ramo, per così dire? Ma io vedo che purtroppo noi spendiamo poco, c'è una scarsa attenzione da parte del mondo politico in generale per la difesa. Alcuni settori del mondo politico considerano la spesa per la difesa una spesa improduttiva, cioè un male necessario del quale si dovrebbe fare a meno. Per di più le forze armate vengono usate a volte in maniera impropria, caso evidente la rimozione dei rifiuti non è certo un lavoro che si deve affidare dai militari professionisti. No, su questo solo un inciso, perché io penso che molti a casa non abbiano presente che in questo giudizio non c'è semplicemente il così dire cosa, no, i militari non si devono sporcare le mani, c'è un giudizio che invece ha a che fare con lo spreco assoluto. Quando c'è un servizio militare costruito sulla base della scelta professionale, concentrarsi su pochi addestrandoli bene con mezzi qualificati per missioni tecnico-militari in Italia e all'estero, utilizzarli per la rimozione dell'immondizia significa essere economicamente, dal punto di vista dell'efficienza delle risorse impiegate per il trend di quelle risorse umane, degli stupidi. Questo è il fatto che vi deve arrivare a casa. Prego, la interrompo solo per dare più forza al suo ragionamento. Ecco, così abbiamo completato, diciamo, la frittata, ma diciamo che effettivamente è proprio così. Un tempo quando c'era la naja la potevamo considerare manodopera a basso prezzo, adesso non è così. Usare un militare professionista per spalare la spazzatura è un insulto al buon senso e economicamente anche una stupidaggine. Devo anche dire che purtroppo l'altra cosa che mette insieme il mondo politico è la incapacità di varare una riforma organica del sistema difesa, per cui i pochi soldi che abbiamo li spendiamo pure male. Li spendiamo male, i nostri ascoltatori forse non si rendono conto che in tutta Europa è in corso una revisione degli strumenti militari in maniera sostanzialmente di ridurre un po' la spesa vista la situazione economica, ma preservare le capacità. Ecco, noi questo non lo stiamo facendo, tant'è vero che la voce di spesa più alta rimane quella per il personale. Personale la cui organizzazione e distribuzione nei gradi è da fantascienza. Con tutto questo poi abbiamo pochissimi, cioè, per renderlo chiaro, noi avremo bisogno, per essere più capaci appunto sul campo, come continuiamo a chiedere, soprattutto di sergenti, continuiamo a essere pieni invece di marescialli e cose. Ne abbiamo forse, adesso il numero preciso non l'ho a mente, ma sono perlomeno 30.000 in più di quelli che ci servono, i marescialli, pensate un pochino. E lo stesso tra l'altro si trova nei gradi apicali, almeno 300 generali in più di quello che ci servono, però non abbiamo i capitani, i tenenti, i maggiori. Ecco, è questa disfunzione, non è che costi tanto metterla a posto, perché non è che si bisogna comprare apparecchiature da fantascienza, bisogna mettere mano alle tabelle organiche. Ma quelli marescialli votano, adesso io non ci facciamo amare dai marescialli, però sai, i politici alla fine ragionano così, questo lo dico, ci ho messo un po' di colore alla fine, ma perché Nativi che segue da anni, sa che il punto è proprio questo. Noi per anni, quelli che seguono con un po' di cognizione queste cose, tra l'altro pochi giornalisti seguono con davvero con cognizione approfondita queste cose. Nativi, quanti anni sono passati? Perché voi chiedevate alla politica perché continuare sulla carta a dire che c'è un dispositivo militare da 190.000 uomini, quando invece le risorse dicono che bisognerebbe dire la verità e dire no, dobbiamo scendere, ma in maniera da preservarne uno all'altezza di quello che gli chiediamo. Invece la risposta è stata? La risposta è stata che questo non si fa, cioè sul personale, tra l'altro le nostre riforme sono lentissime, loro vedono dei piani di riduzione a 20 anni. Pensate che la nuova riforma varata dal governo Cameron in Gran Bretagna sul versante del personale, che è pesantissima, verrà attuata in 5 anni. Ecco, queste cose qui noi non le riusciamo a fare. Tra l'altro qualcuno, che è ovviamente politico, ha promosso coloro che divennero marescialli. Vede, il modello a 190.000 era superato già praticamente 10 anni fa, è rimasto così sulla carta. Sulla carta, perché poi tra l'altro noi non ne abbiamo i 190.000, quest'anno saranno 178.000, perché si bloccano gli arruolamenti, in basso e si mantiene il resto. Adesso l'unica speranza è che, e mi dà fastidio dirlo, con una legge scivolo si proceda a dei prepensionamenti invece che ai trasferimenti alle altre amministrazioni statali, penso per esempio alle forze di polizia, che avrebbero bisogno di personale. Però questo non si può fare per motivi solo burocratici, di sensibilità sindacale, e così si preferisce scaricare il tutto con dei costi di prepensionamento. Ma comunque il modello che adesso si va a designare a 177.000 uomini, a mio avviso, con i soldi che abbiamo, è ancora troppo grosso. Quindi bisogna arrivare a una red rationem e modulare le ambizioni del paese su quello che si è disposti a spendere. Spendi poco, ottieni poco, però almeno quel poco sia di alta qualità. Ora, un paese in cui sia nelle università come nelle forze armate la percentuale scandalosamente più elevata della spesa finisce in trattamenti economici attuali o di quiescenza, in difesa c'è anche questo, del personale, significa che la capacità di sapere commisurare le risorse agli strumenti, sistemi più avanzati, e soprattutto nella difesa, ma non dico che l'università non sia così, dovrebbero pesare molti punti percentuali in più. Non farlo è colpa anche dell'informazione, non indurre la politica su queste cose a fare scelte concrete, e invece accarezzare sempre col pettine il pelo dell'opinione pubblica, che giustamente, come nei vostri messaggi di oggi, dice: ma no, meno spese militari, ma di cosa state parlando, la pace. Ecco, allora però uno dovrebbe dire: noi non ce li mandiamo 8.000, abbiamo tenuto quasi 12.000 uomini in permanenza, noi abbiamo Iraq e Afghanistan insieme oltre al Libano. Allora uno dovrebbe dire: cari ragazzi, noi rinunciamo, usciamo dalle alleanze, diventiamo come la Svizzera, no, anzi come la Svizzera no, perché un mitra a casa di ciascuno italiano, immaginiamo che cosa avverrebbe se lo avessimo. Io dico sempre la Svizzera, perché quello in fondo è un modello però di coerenza, se si fanno scelte diverse fuori dalle alleanze, però poi ci si dota anche di strumenti adeguati. Bene, un pensiero ancora di sincero e affettuoso sostegno a tutti gli italiani in divisa in Italia e all'estero, grazie alla difesa che ci ha consentito di fare questa trasmissione, e grazie ad Andrea Nativi, alla cui tagliente mancanza di ipocrisia dobbiamo una delle capacità, secondo me, migliori di saper rappresentare a chi lo segue la realtà della difesa italiana in Italia e all'estero. A domani, Linea Generale Radio.